Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Anselmo e lui non parlarono più, finché il vecchio non disse: «Ora scenderemo attraverso queste rocce fino al campo». Mentre attraversavano al buio le rocce, qualcuno gridò loro: «Alt! Chi va là?» Udirono scattare la sicura di un fucile, e poi l'urto contro il legno dell'arma spinta avanti e in giù contro un tronco. «Compagni!» disse Anselmo. «Che compagni?» «Compagni di Pablo!» il vecchio disse. «Ah, ci conosci, no?» «Sì», disse la voce, «ma è l'ordine, conoscete la parola d'ordine?» «No, veniamo da giù». «Lo so», disse l'uomo nell'oscurità, «venite dal ponte, so tutto! L'ordine non l'ho dato io, voi dovreste sapere la seconda metà di una parola d'ordine». «E la prima qual è?» domandò Robert Jordan. «L'ho dimenticata», disse al buio l'uomo ridendo. «E tu vatti a far fottere al fuoco del campo con la tua dinamite». «Questa si chiama disciplina di guerriglia», disse Anselmo. «Abbassa il cane del tuo fucile». «L'ho abbassato», disse l'uomo al buio. «L'ho abbassato con il pollice e l'indice». «Qualche volta farai così con un Mauser che non ha un cino sul cane e il colpo partirà», disse Anselmo. «Questo è un Mauser», disse l'uomo. «Ma il mio pollice e il mio indice sono speciali e faccio sempre così». «Dove è puntato il tuo fucile?» chiese Anselmo al buio. «Contro di te», disse l'uomo. «Era puntato così anche quando ho abbassato il cane». «E tu, quando arriverai al campo, di che qualcuno venga a darmi il cambio, perché ho una fame boia e ho anche dimenticato la parola d'ordine». «Come ti chiami?» chiese Robert Jordan. «Agustin», disse l'uomo. «E crepo di noia in questo buco». «Faremo la tua commissione», disse Robert Jordan, e notò che la parola aburrimiento, che in spagnolo significa noia, nessun contadino in nessuna parte del mondo l'avrebbe adoperata. Ma in bocca a uno spagnolo di qualunque classe è una delle parole più usate. «Senti», disse Agustin, e avvicinandosi posò la mano sulla spalla di Robert Jordan. Poi batté l'acciarino, soffiò sull'esca, la sollevò ed esaminò, a quel lume vacillante, il viso del giovanotto. «Dimmi, è vera la faccenda del ponte? E poi, è vero che faremo saltare un ponte e poi dovremo scappare da questi monti come cani fottuti?» «Non lo so, non lo sai», disse Agustin. «Che barbarie! Ma di chi è dunque la dinamite?» «Mia. E non sai a che serve?» «Non mi prendere in giro. So a che serve e anche tu lo saprai a suo tempo», disse Robert Jordan. «Ma ora ce ne andiamo al campo». «Andate a farvi fottere», disse Agustin. «E tu vacci anche tu. Ma vuoi che ti dica una cosa che potrà esserti utile? Stammi a sentire. Del ponte non mi importa un fico. Il ponte è un'altra cosa, per me è lo stesso. E poi qui, su questi monti, m'annoio. Tagliamo la corda, se è necessario. Questi monti non mi dicono niente, andiamo via. Ma voglio dirti una cosa. Sorveglia bene la tua dinamite». «Grazie», disse Robert Jordan. «La difenderò da te». «No», disse Agustin, «dalla gente che è qui equipaggiata meno di me». «Ah sì?» disse Robert Jordan. «Tu capisci lo spagnolo», disse Agustin con tono serio. «Sta ben attento alla tua fottuta dinamite». «Grazie». «Non mi ringraziare. Sta ben attento alla tua roba. Le è successo qualche cosa?» «No, altrimenti non ti farei sciupare tempo con discorsi simili». «Ti ringrazio lo stesso e ora ce ne andiamo al campo». «Bene», disse Agustin. «E ora fatemi mandare qui qualcuno che sappia la parola d'ordine». «Ci vedremo al campo!» «Sì, uomo, presto! Vieni!» disse Robert Jordan ad Anselmo. giunsero all'imboccatura della caverna. Sotto l'orlo di una coperta appesa davanti all'ingresso filtrava un po' di luce. I due fagotti stavano ai piedi di un albero, coperti con un pezzo di tela. Anselmo era entrato nella caverna. Robert Jordan si alzò per seguirlo, poi ci ripensò. Tolse la tela, sollevò i due sacchi, uno in ciascuna mano, e si diresse trascinando con furia il carico pesante verso l'imbocco della grotta. Qui posò a terra un sacco, alzò la coperta posta all'ingresso, quindi a testa bassa, reggendo in ogni mano un sacco per le cinghie, entrò nella caverna. Dentro l'aria era calda e fumosa. Contro una parete era addossato un tavolo con sopra una lunga candela di sego infilata in una bottiglia e al tavolo sedevano Pablo, tre uomini sconosciuti a Robert Jordan e lo zingano Raphael. La candela gettava grandi ombre sulla parete dietro gli uomini e Anselmo stava a destra accanto al tavolo, a poca distanza dall'ingresso. In un angolo della grotta, la donna di Pablo era china sul focolare acceso. Inginocchiata accanto a lei, la ragazza rimescolava qualcosa dentro un tegame di ferro. Sollevando il mestolo di legno, gettò uno sguardo a Robert Jordan, fermo all'ingresso, ed egli vide, nel riflesso del fuoco che la donna avvivava con un mantice, il viso della ragazza, il suo braccio e le gocce che, staccandosi dal mestolo, cadevano nel tegame di ferro. «Che cosa porti?» domandò Pablo. «La mia roba», disse Robert Jordan, e posò a terra i due pacchi, un po' in disparte, vicino all'ingresso, nel punto più lontano dal tavolo. «Fuori non stavano bene», disse Pablo. «Qualcuno poteva inciamparci al buio», disse Robert Jordan. Si avvicinò agli uomini e posò sul tavolo la scatola di sigarette. «Preferirei non avere dinamite nella caverna», disse Pablo. «Anche se lontana dal fuoco?» disse Robert Jordan. La ragazza guardò la donna, che non parlò, né diede segno di aver udito. Poi si avvicinò a una cuccuma piena d'acqua e vi riempì una tazza che portò al tavolo posandola davanti a Robert Jordan. Egli le sorrise, ma intanto contraeva i muscoli dell'addome e si voltava leggermente a sinistra sulla sedia per far scivolare la pistola attorno alla cintola e portarla dove gli faceva comodo averla. Infilò poi la mano nella tasca sul fianco e Pablo intanto lo sorvegliava. Tutti lo sorvegliavano. Egli se n'era accorto, ma lui guardava solo Pablo. Robert Jordan esaminò con attenzione gli altri tre uomini seduti intorno al tavolo. Uno aveva una faccia larga, piatta e scura come un prosciutto serrano, con un naso piatto e rotto, e la lunga e sottile sigaretta russa che gli pendeva obliqua dalla bocca faceva sembrare quella faccia ancor più piatta. Costui aveva capelli grigi, tagliati corti, e una corta barba grigia, e portava il solito camiciotto nero abbottonato fino al collo. Quando Robert Jordan lo guardò, l'uomo abbassò lo sguardo sul tavolo, ma il suo sguardo era fermo e le palpebre non battevano. Gli altri due erano evidentemente fratelli, si somigliavano molto ed erano ambedue tarchiati, pesanti, neri di pelo, i capelli attaccati, bassi alla fronte, scuri d'occhi e di pelle. Uno aveva una cicatrice che gli attraversava la fronte sopra l'occhio sinistro e quando Robert Jordan li guardò, gli restituirono tranquilli lo sguardo. Uno, giudicò Robert Jordan, poteva avere 26 o 28 anni, l'altro due di più. «Io, con la faccenda del ponte, non voglio avere niente a che fare», disse Pablo senza alzare gli occhi. «Né io, né i miei uomini». Robert Jordan non rispose, guardò Anselmo e, sollevando la tazza, «Allora», disse sorridendo, «ci penseremo noi due, vecchio». «Senza questo vigliacco», Anselmo disse. «Che cosa hai detto?» disse Pablo al vecchio. «A te proprio niente, non parlavo con te». Lo sguardo di Robert Jordan si posò allora al di là del tavolo, sulla donna di Pablo, che era in piedi accanto al focolare. La donna fino a quel momento non aveva detto una parola né fatto un gesto, ma adesso sussurrò alla ragazza qualche parola che Robert Jordan non udì, e la ragazza si alzò dal focolare e, scivolando lungo il muro, sollevò la coperta che copriva l'ingresso della caverna e uscì fuori. «Ci siamo», pensò Robert Jordan. «Ora comincia la musica. Avrei preferito che le cose si mettessero diversamente, ma invece vanno così, pare. «E tu?» disse Robert Jordan alla donna di Pablo, che se ne stava muta e enorme accanto al fuoco. La donna si volse agli uomini e disse: «Io ci sto per la faccenda del ponte». Il suo viso, illuminato dal riflesso del fuoco, leggermente arrossato, era, come la donna aveva calcolato, scuro, bello e luminoso. «Che cosa dici?» le chiese Pablo. Come alzò il viso, Robert Jordan notò la sua espressione delusa e le gocce di sudore sulla sua fronte. «Per la faccenda del ponte io ci sto e sono contro di te», disse la donna di Pablo. «Questo è tutto». «Ci sto anch'io», disse l'uomo con la faccia piatta e col naso rotto, schiacciando il mozzicone della sigaretta sul tavolo. «A me non importa niente del ponte», disse uno dei fratelli. «Io sto per quello che vuole la mujer di Pablo». «Anch'io», disse l'altro fratello. «Anch'io», disse lo zingaro. Robert Jordan esaminò Pablo e intanto la sua destra si affondava lentamente, sempre più, per essere pronta se fosse stato necessario, ed egli lo sperava quasi e forse pensava che quella soluzione era la più semplice e comoda. «Io sono per la Repubblica», disse felice la donna di Pablo, «e la Repubblica è il ponte. Poi avremo tempo di fare altri piani». «Tu?» disse amaro Pablo. Tu, con la tua testa di toro e il tuo cuore di puttana, credi che ci sarà un poi dopo la storia del ponte? Hai un'idea almeno di quello che succederà? Quello che deve succedere, succede, disse la donna di Pablo. E a te non importa di farti dar la caccia come una bestia per questa storia che non ci frutterà niente? O anche di creparci? Niente, disse la donna di Pablo. E non provare a spaventarmi, vigliacco. Vigliacco, disse amaramente Pablo. Un uomo viene chiamato vigliacco perché ha senso tattico, perché è capace di prevedere dove porta una stupidaggine. Non si è vigliacchi perché si capisce quel che è stupido. E non si è stupidi quando si sa quello che è vigliaccheria, disse Anselmo. Non aveva resistito alla tentazione di quella battuta. Vuoi morire? Gli chiese serio Pablo, e Robert Jordan notò che quella domanda non era affatto retorica. No! Allora tieni a bada la lingua. Tu parli troppo di cose che non capisci. Non vedi che questa è una cosa seria? Disse con tono quasi lamentoso. Sono il solo qui che capisca quanto è seria. Probabilmente, pensava Robert Jordan, molto probabilmente, povero Pablo. All'infuori di me, tu lo capisci. E io lo capisco. La sicurezza esiste, disse Pablo. Anche nel pericolo c'è la sicurezza, che viene dal conoscere quali sono i rischi da correre. Un torero che sa quello che fa non affronta rischi, ed è sicuro. Finché non viene infilato, disse amaramente la donna. Quante volte ho sentito parlare così in Matadores, prima che fossero infilate. Quante volte ho udito dire da finito. Solo l'intelligenza vale. Non è stato il toro a infilare quell'uomo. L'uomo si è infilato lui stesso sul corno del toro. Parlano sempre così, pieni di boria, prima della cornata. Poi andiamo a trovarli all'ospedale. Ora recitava la scena della visita all'ammalato. Ciao, vecchio, ciao! Gridò con voce tremante. Poi imitò il bisbiglio lieve del torero ferito. Buenas, compadre. Come va, Pilar? Di nuovo con la voce naturale. Come è andata dunque, finito, Chico? Come mai ti è capitato questo sporco accidente? Poi un filo di voce. Non è niente, mujer. Pilar, non è niente. Non doveva accadere, l'ho ucciso a regola d'arte, capisci? Nessuno avrebbe potuto ucciderlo meglio. Poi, dopo che l'avevo ucciso proprio come andava ed era assolutamente morto, mentre vacillava sulle gambe e stava per crollare per il suo stesso peso, mi sono tirato in là con molto stile e una certa arroganza ed ecco che da dietro lui mi ha ficcato il corpo fra le chiappe e il corno è uscito dal fegato. Pilar scoppiò a ridere e, smettendo di imitare la voce quasi femminea del torero, continuò con la propria voce rimbombante. Tu e la tua sicurezza. Ho vissuto 9 anni con i 3 matadores peggio pagati del mondo e dovrei imparare da te che cos'è la paura e che cos'è la sicurezza. E tu! Quante illusioni mi sono fatte sul tuo conto e come le ho perdute. Dopo un anno di guerra sei diventato un fannullone, un ubriacone e un vigliacco. Thank you. credo che Pablo resisterà ancora molto. Robert pensava tra sé. In una mano teneva la tazza, l'altra riposava, ora senza più nascondersi sulla pistola. Aveva tolto la sicura dell'arma e lo confortava il contatto con il manico, una volta ruvido e ora quasi liscio dall'uso. Toccò il grilletto rotondo, fresco e familiare. Pablo non lo guardava più, ma guardava soltanto la sua donna. «Stammi a sentire, pezzo d'ubriacone», seguitò lei. «Lo sai chi comanda qui?» «Comando io». «No, stammi a sentire. Levati la cera da quelle orecchie pelose e stammi a sentire, eh? Comando io!» Pablo la guardava e la sua faccia non tradiva il suo pensiero. La guardò deliberatamente, poi guardò attraverso il tavolo Robert Jordan. Guardò Jordan a lungo, pensieroso, infine riportò lo sguardo sulla donna. «Va bene, comandi tu. E se vuoi, può comandare anche lui. E potete andare all'inferno tutti e due», disse guardando bene in faccia la donna. Non sembrava dominato né particolarmente impressionato da lei. «Sarò pigro, può darsi, e forse bevo troppo. Giudicatemi pure un vigliacco, ma ti sbagli. Non sono più uno stupido». Fece una pausa. «Ti auguro di comandare e che ti faccia piacere. E se non sei soltanto un comandante, ma anche una donna, vorremmo qualcosa da mangiare». «Ebbene, l'hai visto il ponte?» chiese lo zingaro. Gli altri, che dopo il loro voltafaccia non avevano più aperto bocca, si protesero ora tutti per ascoltare. «Sì», disse Robert Jordan, «è un'impresa facilissima. Volete che vi faccia vedere?» «Sì, ombre, ci interessa molto». Robert Jordan si tolse dalla tasca della camicia il taccuino e mostrò agli altri gli schizzi. «Guarda, guarda», disse l'uomo con la faccia piatta che si chiamava Primitivo, «è proprio il ponte». Robert Jordan illustrava ora con la matita come si doveva far saltare il ponte e perché le cariche dovevano essere collocate proprio così e non in un altro modo. «Com'è semplice», disse il fratello con la cicatrice sulla faccia, Andres. «E come le farai esplodere?» Anche questo gli spiegò Robert Jordan e mentre spiegava sentì la ragazza posargli il braccio sulla spalla per guardare. Anche la donna di Pablo guardava. Solo Pablo non mostrò interesse. Seduto in disparte, affondava ogni tanto una tazza nel grande orcio che Maria aveva riempito e appeso a sinistra dell'ingresso. Robert Jordan scostò la coperta da cavallo appesa davanti all'ingresso della grotta. Uscì fuori e respirò con forza l'aria fredda della notte. La nebbia si era diradata, le stelle erano spuntate. Mentre respirava forte, aguzzando l'udito nella notte, udì prima sparare lontano, poi una civetta gridò nel bosco ai suoi piedi, dove era il recinto dei cavalli. Poi nella caverna lo zingaro cominciò a cantare, accompagnandosi sommessamente sulla chitarra. La chitarra si fermò. «Stasera non sono in voce, non perdete niente», disse lo zingaro, e scostando la coperta uscì nella notte. Robert Jordan lo vide andare verso un albero, poi venire verso di lui. «Robert», disse piano lo zingaro. «Sì, Rafael», egli disse. Capiva dalla voce che l'uomo era leggermente avvinazzato. Egli stesso aveva bevuto due tazze di assenzio e una di vino, ma lo sforzo di affrontare Pablo gli aveva lasciato la testa fredda e chiara. «Perché non hai ucciso Pablo?» disse con un filo di voce lo zingaro. «E perché avrei dovuto ucciderlo? Presto o tardi dovrei ucciderlo, perché... perché non hai colto l'occasione? Parli sul serio. Che cosa credi che aspettassero tutti? Perché credi che la vecchia abbia mandato via la ragazza? Credi che tutto possa seguitare come prima, dopo quello che è stato detto? Uccidetelo voi, allora. Che va?» lo zingaro disse con calma. «Questo è affar tuo. Due o tre volte abbiamo creduto che l'avresti ucciso. Pablo non ha amici». «Ci ho pensato», disse Robert Jordan, «ma poi ci ho rinunciato». «Già, ce ne siamo accorti tutti. Hanno tutti visto i tuoi preparativi. Perché? Perché non l'hai fatto?» «Ho pensato che potesse dispiacere a voi o alla donna». «Ma che va? Quella bagascia non aspetta altro. Sei più giovane di quanto sembri». «Forse». «Uccidilo ora», lo zingaro insisté. «Sarebbe un assassinio». «Tanto meglio», disse molto piano lo zingaro. «C'è meno pericolo. Su, uccidilo ora». Così non posso, mi ripugna. E non è così che si deve servire la causa. Allora provocalo, ma a ucciderlo devi, non c'è rimedio. Robert Jordan camminò tra i pini, cercando la via a tastoni di albero in albero fino all'orlo del prato. Sono stanco, pensava. Forse non ragiono bene, ma il mio dovere è l'impresa del ponte e non devo espormi inutilmente ad alcun rischio prima di aver compiuto questo dovere. Questa volta, certo, è ancora più pericoloso voler sfuggire a un rischio necessario, ma finora ho fatto proprio così, lasciando correre le cose per la loro china. Se è vero, come dice lo zingaro, che gli altri si aspettavano che uccidessi Pablo, avrei dovuto farlo, ma non mi sono mai accorto in modo chiaro che aspettassero questo. Non è bene che uno straniero uccida quando poi deve lavorare con la gente del luogo. Una cosa simile si può fare in combattimento, oppure quando ci si può appoggiare a una forte disciplina, ma in un caso come questo sarebbe stato, credo, un grave sbaglio, nonostante la cosa tentasse davvero ed apparisse semplice e rapida. Omero Antonutti ha letto Per chi suona la campana di Ernest Hemingway, regia di Anna Antonelli, riduzione di Giovanni Piccioni, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.